Allora, c'è stato un dibattito interno al movimento LGBT che purtroppo si è esaurito troppo in fretta. L'adesione, infatti, di varie realtà del movimento LGBT è arrivata già settimana scorsa e non la condividiamo. Per questo motivo abbiamo deciso di prendere parola per distanziarci dall'adesione ad una piazza che è in un rapporto troppo ambiguo con il piano Rearm Europe di Ursula von der Leyen. In particolare si tratta di una piazza convocata senza una piattaforma chiara. A partire dall'invito di un giornalista sull'editoriale di Repubblica, Michele Serra, che però era un invito abbastanza ampio, abbastanza vago. Noi ci chiediamo per che tipo di Europa si scende in piazza sabato e siccome non c'è una risposta chiara, insieme ad ARCI, insieme ad ANPI, insieme poi in fondo anche a CGIL che ha ritrattato la propria posizione, diciamo che questa non è la nostra piazza e che noi non siamo assolutamente per un piano di riarmo dei singoli stati, soprattutto non di un piano di riarmo che va a tagliare la spesa sociale in favore delle armi. Quindi insomma non condividete nemmeno chi ha detto sì, andiamo in piazza, ma con le bandiere della pace? Io penso che la piazza evidentemente esprimerà visioni di Europa molto diverse tra di loro, ma diciamo che questo è il dibattito che dovremmo avere ed è un dibattito di costruzione di una piattaforma che eventualmente doveva venire prima di questa manifestazione. La manifestazione è stata un po' convocata secondo noi, almeno per quel che ci è sembrato, sotto l'effetto di un momento di sciovinismo europeista, di identitarismo un po' superficiale. Ecco, che cosa c'è dietro? Che idea d'Europa abbiamo? È su questo che dovremmo discutere. Forse effettivamente in Italia non l'abbiamo ancora fatto abbastanza, non alla luce delle nuove condizioni. Noi siamo consapevoli che tutto quello che sta succedendo cambia sicuramente gli equilibri, ma noi pensiamo che adottare un piano di riarmo di questo tipo, far soffiare il vento di guerra che c'è in questo momento in Europa, non faccia che poi rafforzare le estreme destre che sono già di fatto al potere in molti stati europei. Quindi se questa è l'Europa verso la quale vogliamo andare, noi non ci sentiamo europei, non Ecco. siamo dell'Europa di Meloni, dell'Europa di Orbán, l'Europa di AfD e secondo noi von der Leyen non si sta neanche distanziando abbastanza da questo modello. Quindi secondo voi le altre realtà LGBT che hanno deciso di partecipare sbagliano? Le altre realtà LGBT che hanno deciso di partecipare sono libere di farlo. So che c'è un dibattito interno, come ho detto sin dall'inizio, e da quel che so, probabilmente ci sarà anche una presa di posizione che chiarisce alcune cose, perché effettivamente l'adesione è stata molto, molto, diciamo, repentina. Ecco, questo ci fa piacere. Ci fa piacere sapere che comunque una forma di dibattito interno può beneficiare. E tuttavia, noi in un momento come questo sentiamo di doverci distanziare fortemente perché non è il tipo di movimento LGBT del quale ci sentiamo parte, questo, ecco.